Pablo Picasso, raccontato da Salvatore Carrubba. Non è solo l'indiscussa grandezza artistica ad aver fatto di Picasso un autentico mito del Novecento. Egli infatti fu uno dei primi campioni di quella spettacolarizzazione dell'arte che ha reso gli artisti degli autentici protagonisti dello star system internazionale. Insieme a Dalí, Picasso fu un campione di questa tendenza, anche grazie alla conclamata voracità amatoria. L'artista diventava insomma egli stesso opera d'arte, come ci dice Luca Beatrice nel suo libro Pop, l'evoluzione dell'artista come star, pubblicato da Mondadori. È da fine Ottocento, scrive Beatrice, che l'arte si scopre fatto pubblico e sociale, da Van Gogh a Gauguin, da Toulouse-Lautrec a Degas, da Modigliani a Picasso, fino ovviamente a Duchamp. La figura dell'artista cambia allo stesso modo in cui mutano usi e costumi sociali. Fin qui Beatrice. Insomma, l'artista diventa espressione e non solo artefice della cultura contemporanea. Come aveva osservato Cesare Brandi in uno scritto contenuto nel libro Viaggi e scritti letterari, pubblicato da Bompiani, nel quale fotografa così Picasso, l'artista non come torre d'avorio, ma sulle barricate del suo tempo e dalla parte giusta. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it